sei qua? Ecco qui. Sì, Antonè, io fino a un certo punto potrei darti ragione per la risposta, però sai cos'è? Quelli non stanno giocando, i canali sono quasi tutti impegnati e loro stanno facendo anche una cosa utile alla comunità, non stanno giocando. Invece ostinarsi a stare sul 7 sapendo che quelli che stai un po' bloccandogli le comunicazioni, no? Cioè abbiamo la 27, ci sono 40 canali, grazie a Dio uno non vuole stare sul 10, va un altro canale, ma... e quelli lo stanno facendo anche come, rischiando anche di loro, di ammalarsi loro per curare gli altri. Io sono dell'idea che dovremmo lasciarlo libero, cioè io non ci entro, io non li sentivo, ecco perché ti ho chiamato. Non li sento perché in portatile non posso sentirli da qua, capito? Comunque sia, non è così come dici tu, anche perché se una persona dice Antone, cioè già ascoltate lì, Antone, per favore, ci puoi lasciare il canale libero come ha fatto Fabrizio una volta, ti ricordi sull'otto, cosa del genere? Dico, ma ti lascio il canale libero, non c'è nessun problema. Io non ho detto niente, ho detto, quando mi ha chiamato, ho detto, se vuoi ti lascio il canale, ho detto, quello che sei, allora non me lo fate niente, sono tutti i miei buon sponsor, usate voi, ci abbiamo detto, otto canali e un semplice diretto, a un certo punto. Ma cosa questo invece, a cosa non ho risposto mai? Questa è una cosa da dire, non ho risposto mai. A un certo punto non ci ho detto più, fanculo, tu e quanto sei. Antonio, fatica a copiarti perché hai un fortissimo rumore di fondo, una specie di soffio e stento a sentire la tua voce. Dovresti abbassare l'amplificazione. Ma sai cos'è? Quelli non è da ieri che stanno parlando lì per fare queste cose di utilità. Ci sono da quando è scoppiato il Covid, quindi inutile insistere a stare su quel canale o sui canali PMR, Antonè. Vabbè, io adesso che lo so comunque non chiamo nemmeno a salutare, non vorrei fare casini, capito? Bene, invece bisognerebbe tirargli le orecchie, perché lì protezione dei dati non ce n'è, come giustamente ha fatto osservare anche un altro CB, un altro radioamatore. C'è lì dando nomi e cognomi, la signora tale Itali, c'ha coso, bisogna cambiare il panno, non va bene così, dovrebbero usare radio cifrate, che ne so, ma quantomeno con l'inversione di banda, come scramblerizzazione, non a far sapere i cavoli di tutti via radio, eccetera. Vabbè, quello è un problema loro. Nessuno vigila, e allora noi, io niente saccio. Chi vuole entrare avanti? No, perché prima c'era un segnalino, prima che entrassi. Antonio è risolto per la modulazione, vediamo. Antonello è morto. Dimmi tutto. Mi senti? Sì. Antonè, c'hai una specie di ventola fortissima. Io non capisco quasi quello che dici. Ah, aspetta, dove mi va? Ecco qua, tolta la ventola, a posto. Meglio, ma era un abisso, c'è un abisso, Antonè, ti copriva la modulazione giù mai. Il microfono stava attaccato alla linea, più che altro, poi ci hai mettato con la 20 ampere. Eia, io c'è perché non sto usando l'antenna esterna per ricevere col ricevitore, perché cioè, non uso mai, la volta che metto, faccio passare il cavo e chiudo la finestra, no, che c'è un... cioè, non la chiudo completamente, no, il tanto che passi un RG, che poi un H155, puntualmente arriva il vento. Capito, che me la apre, la devo legare a spago, bisogna bucare il muro qua, però io assolutamente il muro non lo voglio bucare, per uno schifosissimo ricevitore, capito? Infatti sono in antennino interno, per quello io non li copiavo, quelli dell'ospedale, capito Antonè? Ma ci sono, comunque sono abusivi, lo sai anche tu, quindi non è che... cioè, questo, di fatto, mi faccio un favore io, non è per l'altro. però che mi risponda a cazzo una persona, una cosa così, se permetti ce la vado a fanculo. Il discorso è quello lì. Solo uno mi ha risposto, non mi ha risposto nessun altro, solo uno. Adesso insomma magari mi avrei pigliato per qualcun altro che l'ha offeso, siccome c'è stato un problema l'altra volta che hanno offeso questa su canale 7, capito? E quindi non vorrei che si avrebbe pigliato con me, capito? Il discorso è quello. Vabbè, sarà stato o è un novello o è nervoso, che ne so, comunque è cosa risaputa, magari questa era là allo stremo, cioè da mesi si dice sapete che moduliamo lì. Sì, c'era stato un'altra volta uno scambio di parolacce sul 7 PMR e uno diceva ma non hanno diritto a stare qua, perché a Sassari con antenne esterne, con veicolari, abbiamo diritto a stare lì, niente, manco noi allora, in quella modalità, capito Antonio? Vabbè, comunque, niente di che, tutto lì, non stiamo a dilungarci su questa menata, io infatti entro a salutare e poi chiudo lì, non mi interessa. Aspetta un attimo, telefono. Io sono qua, rispondi pure. Dimmi tutto, dimmi. No, era un parente. Sono un po' stanco, sempre caldo c'è fuori, cioè io già mi lamento del caldo che c'è adesso in macchina, mamma mia cosa sarà in estate, povero me. Santa Maria Mugina. E infatti, a voglia. Simona come sta? Un po' meglio, uguale, com'è? No, sta peggiorando perché io sono rimasto 24 ore sveglio. Io no, e quindi figurati tu. Il cavolo. Però che cosa non si sa, non si è capito, no? Ha preso la medicina sbagliata e gli ha fatto l'effetto contrario, capito? Quindi la possibilità di averla addormentata, la svegliata, come perdere cazzo un coso, un cannone e rimane tutta la notte cazzo con gli occhi spalancati, tutta la notte ballando, cosa del genere, cazzo. Dicevo, sì, ma c'ho sonno, no? Lui continuava cazzo a dormire, hai capito? Quindi, grazie a Dio, io sono uscito a dormire, almeno 6 ore, grazie a Dio, l'ho recuperato, non molto, ma 6 ore l'ho recuperato, grazie a Dio. Sì, Antonio, insomma, purtroppo non è colpa sua, però caspita, tutti a te, tuo padre, tua madre, tuo fratello, Simona, mamma mia che situazione brutta. Io lo so, non ci posso fare io, non ci posso fare niente, a un certo punto ce l'ho come gatto a capo e basta. Sto soffrendo per niente, più che altro, la verità. Quindi figura di tu. Ma mi sa che la gente, anche se zona bianca, molti non escono. Allora io sono uscito, sono andato con mamma stamattina verso le 2 di pomeriggio, no? L'ho portata a casa, ho portato una bustina di spesa, una cosa minima, più che altro era per uscire. E sono uscito, bene o male le macchine che c'erano qua nella via le conosco. Sto in giro un'oretta, eccetera, un'ora e mezza, torno a casa, non c'era un posto lì, c'erano le stesse macchine, cioè nonostante sia zona bianca, sembra che la gente abbia preso l'abitudine di non uscire. C'è le stesse macchine, certo anche da giorni ci sono. O è gente che va al centro, oppure non esce proprio la gente. Vabbè, saranno previdenti, tanto mi se vai in luoghi affollati, E basta questi messaggi, mamma mia, tutta roba di parenti, di cose, di successioni, dice scampi liberi. La gente ormai è abituata a farsi la spesa, hai capito? Prende il tram, si fa la spesa con le buste e se la porta a casa, la macchina lascia a casa, il discorso è quello. È così ormai. c'è il Covid, capito? In macchina a casa se esce un casino, quindi a un certo punto, se fai la spesa tu, non puoi entrare tua madre, il discorso è quello lì. Se sono dei quattro tutti, che fanno finta di non conoscersi, capito? Ma entra uno, poi entra l'altro, senza essere con la macchina, si fa la spesa con le buste, due buste al giorno, togli il medico Vittorio, il discorso è quello. No, io già da lì col tuo spin. Chi è? Che cavolo è? Che cavolo di messaggi mi mandano? Allora, boh, non lo so. Cazzo, chi sovrattende, boh. Vabbè. Boh. Antonio, questo è sempre roba di parentame sto ricevendo, vabbè. Non si girano solo le balle a leggere i messaggi. Questi parenti che abbiamo noi, tutti terroni sono. Più di noi, più terroni, più a sud. Già va bene la Puglia. Comunque, siccome conosco una persona che lavora lì al pronto soccorso, un vigilante, conosce tutti i medici. Io ho detto come stavano le cose l'altro giorno, e tu dici che saranno già voi, quindi a un certo punto. Hai capito? Basta. Cioè, rispondermi così in quelle condizioni dove non ho fatto niente, è un discorso diverso. Se poi siccome sei incappato con l'altro giorno ho saputo che qualcuno si è lamentato, ha risposto male, gli ha offesi e cose del genere, e quindi a un certo punto, siccome non sono io, ma è quell'altro, in un certo punto basta, non devo passarci io. Tutto lì. Gli ho fatto la segnalazione, ho detto guarda, ho detto, io dici, per me posso parlare dove vogliono, quando vogliono, ho detto, a un certo punto, però rispondermi male, ho detto, mi dispiace per loro, ho detto, a un certo punto, ho detto, mi piazzo lì, davanti, ho detto, pronto soccorso, ho detto, e poi vediamo se parlano, ho detto, da piano a piano, ho detto, chi se ne frega, ho detto. Se vogliono una guerra, ho detto, una guerra avranno, no, tu preoccupare, già ci penso io, intanto dice, lavoro io lì, tutte le sere, quindi a un certo punto faccio la segnalazione, mi ha detto. Non per l'altro, che cazzo, ce la faccio a farmi tirare cazzo a parolacce da un vicino, cazzo, non esiste, hai capito? Da me e degli altri non me ne frega niente, ho detto. Siccome io non ho offeso nessuno, gli ho detto entra, non c'è problema, detto, ti posso lasciare, detto, il canale libero, ho detto, potete parlare, il discorso è quello, gli ho detto che era il tondo. Ha preso, ho detto, mi ha risposto male, a un certo punto ho detto, non ci ho visto più. Questo così, per me, quello che ciò che hai detto, per me è un complimento, tutto lì. Però ho detto questo complimento, ho detto che lo pagherai, ho detto, solo per quello, ho detto. A me non me ne frega niente, ho detto, con chi ho parlato tu prima, dopo, quello che non me ne frega niente, non me ne frega niente, ho detto. Ho detto la paghi. Infatti l'ho detto a quell'amico che c'ho lì, che lavora lì alla. Ha pronto soccorso, che fa la vigilanza, capito? E quindi sanno chi è subito. Potrebbe essere uno, se un liquidi osso, infermiere, quello che. Hai capito? Cazzo, a un certo punto, scusa, gli vuoi bene, cazzo, non vuoi parlare, eccetera, eccetera, cazzo. Non si può, cazzo, permettere di rispondere, cazzo, che sono una testa di cazzo, ma ce la fai, cazzo, appena entrato. Non va bene, è come se avessi detto a te. Qui, a un certo punto, sono lamentato così io. Tanto che conosco persone lì alla Santissima Annunziata, li conosco quasi tutti, quindi a un certo punto. Adesso vediamo chi è quello stronzo. Così lo liberiamo subito. Va bene Antonio, ma non puoi fare una malattia, se in mano a PMR uno ha risposto male, lo stesso per la 27, non fai una malattia. Se l'avessi detto a me avrei già capito che che lì se sta lavorando non ci sto. Poi che cerca di capire Antonese, e poi questo di vendetta, volete la guerra, prega che non si svegli il can che dorme, perché poi rompe il sedere a tutti e ci passano altri. Poi quello non ci passa nessuno, non ti preoccupare, non è partito da me la verità, quindi è partito da un'altra persona. Quindi a un certo punto ho cercato un'altra persona, non a me, ciò che gli ha detto roba, non a me, il discorso è diverso. Ha detto, dici che io sono tale persona, mi sono presentato, eccetera, eccetera, quindi se uno entra e ti offende, c'hai ragione, ho detto, ma non è che te la pigli con me, no? Perché non, cioè, non conosci l'apparato, non conosci la voce, eccetera, eccetera, e ce lo passare io, e no. Vabbè Antonio, dai, se ne è parlato anche troppo, io adesso mi stendo un attimo, mi tolgo le scarpe, mi rilascio un attimo e poi alla solita ora mangio qualcosa, poi se c'è qualcuno a salutare entro a salutare, 27, poi basta, dai. Ci sentiamo, ma è buona serata, non attaccarti a queste fesserie Antonio, che sono fesserie. Ci sentiamo, ciao, saluta Simona. Per quello già non ci sono problemi, l'ho già risolto, non ti preoccupare. Quindi la cosa risolta, chiusa la verità. È stato individuato la persona che ha parlato, hai capito? Quindi è stata eliminata immediatamente. Era un operatore OSS che non voleva manco rispondere a un solo lato. Quindi a un certo punto, siccome rispondono un infermiere, che discorso è quello, quindi tutto si è eliminato lì, quindi siamo a posto. Ah, va bene, ci stiamo alle prossime. Al limite oltre il metro se vuoi entrare, se no pazienza, io entro verso quell'ora in 27 perché sto facendo roba, sto liberando, liberando i garage più che altro e così me ne affitto, dopodiché ho la regalare della roba che c'è giù in garage, un materasso di quelli matrimoniali eccetera eccetera. Adesso vediamo un pochettino. Ecco, Rosso Laussi, Gabio. E stanno, frusci non riponi, ah! Raio che ce l'ho. C'è qualcuno? Ciao Roberto! Chi sei, Giulio? Eia, ciao Roberto! E sta musica? È Madrid, due, sole, mio fratello! Ma sta calese o sardo? In questo momento sta contando il sardo. Ah, infatti ho detto, non mi sembra abbastanza rese. Sì, è una canzone, Dio, Deus, Sangue Maria, boh, una cosa del genere. Ma questo, quello attore, quello che giocava a pallone? Sì, quello lì. Te la mando, voi siete, te la mando. Ma se ha fatto Sassarese, sardo non è che mi piace in assai, mandami sa, è Sassarese, ce ne hai. La voglia, anche Sassarese. Oh, ma qua c'è un video addirittura. Ma Ma canzoni fatte da lui o ripropone lui canzoni tipo Ruzzetta o cose così? Ne ha, lui sua ne ha anche di altri cantanti, no? Le canzoni vengono cantate un po' da tutti, no? No, vabbè, ci sono quelli che poi le scrivono loro le canzoni e poi ci sono quelli che, come molti gruppi, quando fanno le serate cantano le canzoni per dire Gineto Ruzzetta, Trio Sassari Cassurina, Latte Dolce, Trio Latte Dolce, eccetera, eccetera. Beh, certo, è così, è come tutti, no, del resto, tutti fanno così. Ma comunque lui ne ha tantissime canzoni sue, proprio fatte da lui. Questo adesso è un video, questo che stai ascoltando adesso è un video. E lui, non so, questo è un video, credo, fatto a Icchiri, con quella zona lì. Ho capito, non c'è nessuno qua, ho visto c'era qualcuno che ha messo un segnalino, però non parlava, Santiago Otto qua. No, non lo so, io ho acceso adesso, dunque. Ragazzi, facciamo una chiamata generale sul canale 10, attenzione sul 10, chi vuole entrare avanti. Ok, aspetta che intanto chiudo la canzone, ecco qua, chiusa. Eia, dimmi un po', era un po' che non ti sentivo, Giulio, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ah, sai che non sei uscito? Sì, tutto a posto, sì, perché mi stava cadendo il telefonino e ho mollato in fretta per prendere il telefonino. Meglio così, se no si faccia. Al mio già c'ha l'astuccio bello, quelli tipo al libro, che li apri tipo un libro, così è protetto davanti e dietro. Sì, anch'io ce l'ho così, però sai, cade per terra è sempre un problema, si rompe il display, come mi è successo qualche anno fa, mi era caduto mentre stavo aprendo la serranda in falegnameria, mi è caduto e si è rotto il display, cioè è rotto nel senso che poi uscivano tutte le cose che si vedevano, il display, e uscivano tutte messe male, dai. Magari non so cosa c'era la scritta, e tutti gli avvocati, tutti gli storti, tutti allungati o allargati, così uscivano. E capita, no, grazie a Dio. Io già ci sto attento, mi è caduto un paio di volte, però questo c'è anche tutto il bordo in silicone e un po' si salva, perché il mio c'ha doppio vetro davanti e dietro, e se rifaccio so di no, cioè fai prima con pantalone nuovo. Beh, io dico, ma io ne avrò, cosa ne avrò? Ne avrò 7, 8, forse anche 10, perché ogni tanto ne ho uno nuovo, per cui questo, vabbè, questo quanto ce l'ho? Ce l'avrò un anno e mezzo, boh. Questo è l'ultimo che ho avuto, e fino a questo momento funziona sempre bene, ma anche tutti gli altri funzionano bene, ce li ho tutti funzionanti, anzi ne ho anche qualcuno tipo di mia madre, buon'anima, che me lo sono preso io, o meglio me l'hanno dato il mio fratello, e tienitelo tu quello, che sei il più grande, e cosa c'entra quello? Ma c'è una ventolina sotto o che cosa? Sento un rumorino sotto giù. La ventola del coso è della rivetatore, no? Sempre la solita storia. Ah no, meno male, no, pensavo c'era qualcosa di ronzio, era preoccupante, no, va bene, non ti preoccupare. Poi pare che sia anche il rumore del coso, del telefonino che sta caricando anche. L'ho messo a caricare, vediamo cosa sta qua adesso, avanti, adesso è staccato. Pare che sia anche quello. È un pochettino diminuito. Sicuramente anche quello, perché c'era il telefonino che stava caricando, l'ho messo da poco, mi sono appena salito qua su, ero tutta la sera lì davanti alla televisione, giù in tavernetta, per cui, ma comunque, tanto va benissimo, sì, che infatti quando sono salito, mi sono buttato, ho detto, beh, adesso metto musica, vediamo un po' se qualcuno si sveglia. Ieri sono entrato una mezz'oretta, c'era Claudio Di Muro, un pezzettino è entrato doppio rumo, c'era Luca e basta, mi sembra, forse è entrato un attimino Bombolo quando me ne stavo andando. Ho capito, vabbè, tutte le serie così ormai non è più voglia nessuno. Poi tante volte si dicono stupidaggini, sì, che non ne vale la pena nemmeno entrare, per cui cosa entra a fare, perde tempo e a sentire sempre le stesse cose, quanto ti sta arrivando, quanto, come sto uscendo, aspetta che cambio radio, aspetta, guarda questo microfono, ma cosa mi naputa a me di come esci tu, basta che ti capisco, che esci, che ti capisco, mi va bene, pur per tutto il resto che se ne frega. E infatti poi sempre ducchende, io quello lì infatti non è che mi piace più di tanto, una volta c'è una radio, va bene, tieni un'altra, due di scorta, ma sono regolate a non toccare, ma ogni giorno a stare, guarda questo microfono, guarda quello, guarda questa radio, guardati qua, alla fine dice, ma cacchio, io non so da quanti anni ce l'ho questo apparecchio qua, 2004, forse dal 2005 ce l'ho, sempre questo qui, è sempre dietro con lo stesso microfono. E allora, cosa stai lì a cambiare? Ma cosa c'è da cambiare? Poi, ma tu credi che a me mi possa interessare più di tanto, ad esempio, quando uno mi fa sentire tutte le sue radio, ma cosa vuoi che me ne frega a me di queste cose qua? Ma parliamo di qualcosa di concreto, non di sempre delle solite cretinate che si dicono, è anche per quello che la gente si allontana, perché non c'è mordente, non ne vale la pena, ecco. Sì, sì, ha detto bene, molte volte ci sono argomenti interessanti, per dire, stai parlando con una persona e sei interessante, e bene, sono tutti i canti di colpo, e iniziano a disturbare, nel senso a intromettersi quando c'è una bella conversazione. Altri momenti poi non c'è nessuno, tipo adesso siamo in due, dice buh, per dire che non abbiamo nessun argomento interessante, perché più di volte abbiamo fatto delle belle discussioni io e te parlando di cose tecniche eccetera eccetera. Poi entra Guido, non lo puoi lasciare in disparte perché però se no ci rimane male, e quello è un po' la cosa un po' brutta, vabbè, ci accontentiamo di tutto, c'è un po' di tutto, per cui anche di quello ci accontentiamo. Certamente sì, questo sì, non c'è dubbio, ognuno chiaramente fa quello che crede, non sono certo io che devo imporre a nessuno come si deve comportare, però tutto sommato tante volte io se devo essere sincero accendo tutte le sere immancabilmente, anche se non sono in ruota, però sono sempre con la radio accesa, per cui non so tutto, ecco, so come, se vedo che c'è un argomento interessante posso anche entrare e fare quattro chiacchiere e mi fa proprio un gran piacere, ma poi per sentire sempre che quello mi sta arrivando a Santiago Nove, aspetta che cambia attacco lineare, aspetta così, aspetta qua, ma cosa vuoi che me ne freghi, me l'hai fatto sentire un miliardo di volte, me l'hai fatto sentire, la minestra non cambia, è sempre quella, dunque non è il caso, guarda. Ma andiamo avanti, parliamo di cose più belle, più concrete, parliamo di qualsiasi altra cosa, ma dai che mi pigli tutti questi controlli stupidi, perché poi sono tutte stupidaggini in realtà. Ma cosa siete tutti arrabbiati oggi? No, assolutamente. Vieni col telefono un attimo. Così, stiamo mettendo in evidenza la realtà, insomma, della frequenza, tutto lì. Sì, beh, adesso ogni cosa, diciamo, bisogna mettere il giusto condimento, quando poi si mette troppo la piattanza, per usare un termine gastronomico, inizia a essere insipida. E ciao Giulio, comunque, ciao anche all'altro amico, che mi ha detto che è andato al telefono, credo. Buonasera a tutti. Giulio, ti volevo dire, già da tempo poi non ho avuto occasione di sentirti, che avendo sentito un tuo QSO riguardo alla Game Master, che non riesce a sentire su diciamo determinate frequenze, in effetti è così, però con un banale accordatorino c'ha delle ottime prestazioni, perché io l'ho testata in questi giorni, perché dovevo testare un app, praticamente un accordatorino. E ho visto che riesce a accordare anche trasmissioni su varie frequenze, anche molto basse. Quindi l'antenna diciamo, ha comunque un ottimo range. Era questo che ti volevo dire, perché mi ricordavo che tu ne avevi parlato. Ancora a te. Sì, ciao Gioffa. Sì, beh certo, con l'accordatore sicuramente riesci a parlare di normale su altre frequenze, certo, ma ne sono consapevole di questo fatto qua. Ma quello che volevo dire io è che non mi posso lamentare, perché so benissimo che l'antenna che è stata costruita per questa banda è bassa, niente di più, sì, accorda anche in 10 metri, d'accordo, quello sì, anche in 12 metri, perché no? Con l'accordatore accorda, però poi tutto sommato io volevo dire ascoltare altre frequenze radioamatoriali come i 40, gli 80, a differenza della Mantova Turbo che io ascoltavo tutto, anche i 160 ascoltavo, con questa non ascolto proprio, sono proprio, non se ne parla proprio del 160. Negli 80 si parla a livello di Santiago 2, 3, mentre invece prima era 9-10, 9-5, 9-15, dipendeva dalla trasmittente che sentivo in quel momento. Per dire, no, c'è una netta differenza di ricezione, ma quella là, ripeto, intanto era più in alto, era la Mantova Turbo, e poi evidentemente, avendo un piano riflettente, come si deve, a differenza di questo che piano riflettente non ne ha, praticamente questo se lo autocostruisce da sé, anzi diciamo che se è troppo vicino al tetto o a qualsiasi altro ostacolo perde ancora, perché questa vuole, in realtà vuole messa almeno 5 metri da ogni ostacolo, anche dal tetto, almeno 5 metri più in alto per poter rendere al massimo. Però tutto ciò, questo non significa che poi riceve anche le altre bande, no, assolutamente no, sto parlando per avere la massima resa in 27. Sì, sì, Giulio. Certo, quelle antenne lì, diciamo in alluminio, eccetera, che sono ovviamente anche più grosse, hanno prestazioni diverse, questa qua è un po' particolare, però il rendimento è indubbiamente ottimo. Io purtroppo su certi lati ho degli alberi che sono abbastanza alti, dei cipressi, non sono neanche troppo lontani, sono a 10-15 metri dall'antenna. Anche quelli disturbano, però come stazionarie, come prestazioni, considerando che più in alto non può andare per questioni, diciamo, anche pratiche con l'installazione eccetera, si comporta molto bene, l'antenna è veramente ottima. Poi il fatto che riesce a ricevere, io l'ho provata quando c'è appena fine di propagazione, ed è micidiale veramente, ha delle proprietà di rumore che prima avevo la Mantova 1, addirittura le versioni quelle che erano fatte bene, e aveva sempre il rumore essendo un alluminio. Questa invece, anche quando piove e succedono i venti del genere, è abbastanza protetta, c'è un livello di rumore veramente ottimale. Poi tieni presente che per ascoltare anche le frequenze diciamo diverse c'è anche un fattore di cavo e tutte quelle cose lì che ben sappiamo, quindi ci sono tante varianti per quelle. Ok, niente, vediamo se è rientrato l'altro amico che era al telefono. Sì, sono rientrato. Ciao Gianfranco, ben sentito. Ti ascolto una radio diversa, ovviamente hai cambiato qualcosa. Guarda, in effetti sì, e dopo, diciamo così, il discorso di Giulio, mi sono astenuto a chiedere un parere, però questa è in realtà non è il microfono, è un microtelefono, in poche parole, no, di tipo militare, che ho dovuto pesantemente modificare, e quindi non so se la radio è meglio o peggio o uguale di quelle prima, non ne ho pallida idea, però diciamo non si tratta di vedere questo è buono, questo è cattivo, questo qua, questo là, questo è autocostruito, quindi c'è stato un progetto sopra, c'è stato molto lavoro, anche qualche colpetto di tratto, no? E quindi dovrebbe andare, penso, perlomeno io l'ho provato con le mie, con gli altri radio, con le altre ricevitori, e sembra che vada. Voi non avete detto niente a parte te, quindi presumo che comunque si capisca bene. Tenete presente, ripeto, che un'autocostruzione su una cornetta militare. Riprendo io, scusa Giulio, no, ti ascolto perfettamente, è chiara, forte, pulita, naturalissima, proprio bella, una bellissima radio, è ottima, non posso trovare difetti, molto presente, non c'è difetti di riverberi o di effetti strani, di rumori sotto, la modulazione è perfetta, non ha nessuna, sempre qua a fianco a me. Chiedo conferma a Giulio, avanti Giulio. Sì, confermo anch'io quello che hai detto, infatti anch'io vi volevo chiedere qualcosa a riguardo, ma devo dire anche di più. Secondo me è anche più bella di quella che ho sentito precedentemente con Gianfra. Per me è una radio ancora più bella, perché è più chiara, più genuina, diciamo. Dai, per me va benissimo così com'è, non c'è problema. Vabbè, segnale sempre lo solito, vabbè, quello non dipende dalla radio, però come modulazione è ultima. Io ti ascolto molto bene, con una pulizia straordinaria, no, non c'è niente da dire. Ottimo lavoro, evidentemente. Sì, è così. Tornando al discorso antenna, Gianfra, purtroppo è così. Tu mi dirai, ma se devi ascoltare altre frequenze ti fai un dipolo. Certo, la soluzione la trovo sempre, non è che non ci sia la soluzione, ci mancherebbe altro, a parte il discorso accordatore come stai dicendo tu. Ma intanto a me non mi interessano le altre frequenze, se non solo per ascoltare, e per altre cose non posso farci niente. Però mi piacerebbe anche la notte, ad esempio, come facevo prima, indossavo le cuffie e ascoltavo anche in 160 metri. Oggi non lo posso più fare con questo tipo di antenna, proprio perché su quelle frequenze è totalmente sorda, proprio nemmeno niente di niente. Sì, in 160, qualcosina in 80 metri, però sempre a livello di Santiago 2-3. Quando qualcuno mette un bel po' di potenza, allora può arrivare, che so io, a 6-7 di Santiago, a differenza di prima, che magari con un po' di potenza era capace anche di arrivare a 9+20, per dire, no? Cosa che oggi con questo tipo di antenna non è possibile. Poi, per quanto riguarda la luminosità, lo sappiamo, non è per niente rumorosa, va benissimo. Io con tante volte ho fatto anche degli ex insieme in generaggio con Roberto, 9:30 arrivava lui in continente, 9:30 arrivavo io, per dire, no? Per dire, alla stessa stazione. Non c'era poi questa differenza sostanziale tra un posto e l'altro, indipendentemente dal fatto della mia o la sua posizione. Però è così, io l'avevo tolta la Mantova Turbo, premesso che ce l'ho sempre ed è nuovissima, devo dire che è nuovissima, e non l'ho tolta solo per il fatto del rumore, perché quando c'è vento mi dava fastidio la notte, solo per quel motivo lì. Va bene, dai, riprendi Gianfra. Sì Giulio, ma guarda, se tu comunque vuoi ascoltare, io non so adesso se ti sia molto simpatico il PC o antipatico, però ci sono tantissime radio online, SDR, che mettono a disposizione i loro apparati, diciamo, le loro radioline, che normalmente sono radio SDR, ma d'altronde anche quella che sto usando io è un SDR, anche se fa in trasmissione. C'è la possibilità di ascoltare. Io ad esempio in questi giorni stavo ascoltando Roma 4, che è in CB, Roma va anche 10 metri ma copre anche la CB, e ho visto che comunque a Roma c'è molto traffico, diciamo in 27. La cosa che ho notato è che non utilizzano la M, ecco, la M è proprio, forse trovi una, due stazioni, mentre invece sono sempre in banda laterale. Ciò probabilmente è dovuto al fatto che Roma, essendo una grande città, quindi piena zeppa di disturbi a radiofrequenza, la M è difficilmente gestibile, mentre la banda laterale è più, oltre ad andare più lontano, è anche più pratica come segnale. Se tu le ascolti, ripeto, basta fare una ricerca su Google, Roma 4 SDR, e poi puoi ascoltare anche in altre bande, in 80, in 40, in maniera abbastanza efficace, ecco. Anche col telefonino lo fa, quindi l'alternativa c'è sempre, se uno si diretta ad ascoltare può seguire anche degli interi QSO. Ok, rilancio la mia, porca miseria, non so se sia Roberto, se sia, mi sono dimenticato il nome, la voce la riconosco, ma no, riprendi. Sì, Roberto, confermo. No, l'ho ascoltato anche Giulio, è stato il primo che mi aveva fatto conoscere tramite CB Talk, poi avevo fatto l'altra, questa applicazione SDR, Roma 4, ce ne sono più di uno in quella zona lì, come hai detto tu, la maggior parte vanno in banda laterale, e infatti io voglio fare delle prove più avanti, mettendo un'antenna indirizzata a una 4 elementi proprio su quella zona di Roma, dovremmo essere abbastanza aperti, e sperare di riuscire a fare qualche collegamento. Sì, scusa Giulio, magari, purtroppo noi ci abbiamo l'imbara, lo centriamo in pieno per Roma. se non ci fosse l'imbara, forse riusciremmo ad arrivarci. Riprendi Giulia. Ok, sì, conosco quel sistema sul PC, ma io quello l'ho visto diverse volte, ma solamente di giorno, anche Roma 2, cioè per quello, non solo Roma 4, anche Roma 2 e tante altre, per cui li ho seguiti diversissime volte. Sì, anche quello è una buona applicazione, non c'è problema. Devo dire che è ottima, anzi, vedi tutto, vedi anche lo spettro della frequenza che si sta usando, eccetera, eccetera. Sì, web, se ricordo bene, web, non mi ricordo nemmeno la sigla, ma ce l'ho comunque memorizzata, quando mi interessa non faccio altro che mettere i preferiti, clicco così su quell'app lì e mi appare tranquillamente, non c'è problema. Ma ascolto sempre quello, anche altre cose, anche tutte le radio mondiali addirittura. C'è un'app che adesso non mi ricordo, Radio Garden, se ricordo bene, ci sono proprio tutte le radio mondiali, a livello sia nazionale che anche private, eccetera, per cui anche quello. No, io già giro, già sono diciamo informato di tutte queste cose, per cui durante la giornata il tempo non mi manca e allora spazzolo un po' dappertutto, per cui entro e ascolto. Va bene, avanti dov'è. Ehi, allora quel programma SDR nel della navigazione remota di coso, se voi entrate e vi divertite, c'è FM radio, ci sono tutte le radio FM del mondo, oppure in AM tutte le radio AM del mondo, tu scrivi la zona che vuoi, io per dire metto Sassari e mi dà tutti i punti ripetitori, le stazioni di Monteoro, mi dà tutto l'elenco di tutte le radio che trasmettono dagli 88 a 108 la frequenza di Monteoro, la potenza di trasmissione, i decibel del segnale, eccetera eccetera. E di lì, lo so, abbiamo fatto una discussione, ci sono potenze inimmaginabili sino a 10-15 anni fa, potenze fuori dal mercato, cioè non pensavo ci avessero potenze così alte. E poi ho fatto anche delle prove in altre nazioni, come l'Italia non ce n'è nessuna parte, almeno di quelle che ho visto io, neanche negli Stati Uniti, stazioni così potenti. Se tu vai in Francia la più potente arriva a 10 kW, a Parigi sulla Torre Eiffel 8 kW, vedete in Corsica la potenza massima arriva a 3 kW, un paio di radio, se no sono tutte 500 watt, 1 kW, qua a Sassari c'è mondo, come si chiama, ex mondo radio 102, la frequenza di, come si chiama, radiodimensione suono, c'ha 50 kW da Sassari e 42 kW da Monte Alvaro, potenze esorbitanti. Sì, lo so, anche ad esempio io la notte non è che dormo molto profondamente, diciamo che molto spesso mi sveglio come stanotte appena passata, intorno alle 5 la mattina, così cosa faccio? Ho vicino una radiolina, prendo, accendo quella e la metto addirittura in onde medie e ho sentito tante volte la radio dalla Toscana oppure la radio dalla Liguria, Genova eccetera, e ascolto in onde medie, cosa che in onde medie in italiano, chiaramente se è dalla Toscana e dalla Liguria è una radio trasmessa in italiano. A differenza del durante la giornata non sento proprio un bel niente, perché ormai le onde medie della RAI non ci sono più, alle fuori di tutta l'FM eccetera eccetera, e che anche quello, perché la notte sai, si è a letto, non riesci più a dormire dopo quell'ora lì, allora cosa faccio? Mi metto le cuffie, mi metto e incomincio a girare, a spazzolare con la radio ad onde medie e ho più di una volta, e quando voglio lo prendo sempre sia la radio toscana che la radio ligure, cosa che durante il giorno non sarà possibile, perché le onde medie non funzionano più ormai, perlomeno qui a Sassari non vanno più. Vai Gianfra. Sì, esatto, purtroppo mi hanno buttato giù anche il traliccio, una cosa, perlomeno qua in Sardegna, abbastanza discutibile, tenendo presente che quella stazione che da piccoli chiamavamo Radio Sardegna, che tra l'altro c'è anche una bella storia, che è stata la prima, diciamo, a dare la notizia dell'armistizio durante la seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera, quindi secondo me è una cosa da mantenere. Quella stazione per Sassari era verso dal 131, oppure si vede accidenti, ottava, Bancali, una cosa del genere. Ecco, adesso non proprio la zona esatta non me la ricordo, però ci sono andato tantissime volte a vederla. E adesso è rimasto solo la parte, diciamo, proprio di ripetizione FM e quelle cose lì. Poi riguardo al fatto delle potenze esorbitanti, i risultati si vedono, infatti molti tralicci messi male, tutto una ciofecca micidiale veramente. Tanto è vero che, non so se voi l'avete notato, ma c'è un punto della camionale quando prende il curvone per scendere verso il bivio di Canica, proprio al curvone, che sparisce di tutto, anche il cellulare se ci presta attenzione va in tilt e non si sente più il tubo, e questo succede anche in altre frequenze proprio perché evidentemente i ricevitori risentono di questo pompaggio di kilowatt su kilowatt che a quelle frequenze, figurati poi in banda così larga, anche stereo e così, mentre invece non riesce, cioè, o meglio non riesce a decollare, c'è ma non ha preso piede nonostante l'obbligo di installazione su tutte le auto nuove, il DAB, che si sente molto bene, però purtroppo c'è anche molti buchi perché la frequenza è tra i 100, era 180, 200 e qualcosa. Quella lì invece ancora non ha preso piede, mentre in tutta Europa è già super operativa. Almeno avrebbero spento quegli impiastri lì di Monte Oro che creano un inquinamento da micidiale. Riprendi, Giulio. Sì, un amico che ha messo un attimo la portante, se vuoi entrare subito ti lascio campo libero per entrare. Sì, infatti mi ricordo che io seguivo quel ripetitore che c'era lì a San Giovanni, era in realtà era a San Giovanni, subito dopo la curva era il ripetitore Rai delle onde medie. Io avevo la radiogalena che poi l'avevo smontata, ma mi stavo riproponendo di ricostruirla, ho fatto, ma cosa la faccio fare, intanto le onde medie non ci sono più, però la volevo fare per curiosità e provarla la notte, soprattutto la mattina, all'ora appunto che ti stavo dicendo, intorno alle 5 del mattino, quando io solitamente mi sveglio, che poi non dormo più sino ad alzarmi. Per cui volevo proprio ripropormi a ricostruirla per vedere se prendeva, ma mi ricordo che non c'era bisogno nemmeno del filo di terra, tu mi insegni che per la radiogalena, allora essendo senza alimentazione, chiaramente avevo bisogno anche del filo di terra per avere il ritorno delle onde fredde, delle onde radio, eccetera, no? E io attaccavo addirittura l'antenna del baracchino, cioè quando avevo la Mantova Turbo, e sentivo benissimo, chiaramente, almeno su tre stazioni sentivo, e molto spesso se prendevo anche il Radio Monte Carlo. Però poi l'ho smantellata, non l'ho smontata e basta, l'ho messo tutto, comunque tutto l'occorrente per farlo in una mezz'oretta, me la posso rifare come prima, come ce l'avevo prima. Avanti Roberto, forse c'è qualcuno che vuole entrare, un attimo di bianco, Roberto, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. No, vai Roberto, dai, era solo un disturbo quello, vai. No, io non ho sentito nessuno, siete talmente forti, probabilmente era molto più basso. No, il problema del DAB, lo sai cos'è Gianfra? Che trasmette da Monte Alvaro con potenza molto bassa, per cui qua a Sassari ci sono troppi disturbi, le stesse radio, questi segnali, come hai detto tu, quel pezzo di fronte al parco di Monserrato, lì c'è un'attenuazione di segnali spaventosa, anche il telefonino c'ha difficoltà, se ti fermi di lì hai difficoltà a ricevere e ascoltare, nel senso, la trasmissione. Poi c'è un pezzettino che non ho capito per quale motivo il petto della caserma Gonzaga, scendendo il muro, parallelo al muro della caserma Gonzaga, lì c'è un petto di attenuazione dei segnali FM spaventoso, proprio vedi che certi segnali quasi scompaiono, e anche il petto, un pezzettino vicino a via Zanfarino, soprattutto la RAI, l'88.4, lì si abbassa talmente tanto il segnale, è quasi QRM diventa. Non ho mai capito per quale motivo in quel pezzettino della caserma Gonzaga si abbassa così tanto il segnale. Beh, ci possono essere tanti effetti, comunque con le misurazioni andrebbero fatte con apparecchi più molto performanti, ecco, per capire se è un problema dell'antenna che stai usando oppure un problema proprio delle stazioni. E purtroppo è così, senza fare. Le onde medie, comunque la RAI in onde medie continua a esserci, purtroppo Giulio è incontinente, non so se sia rimasto qualcosa nel cagliaritano, onestamente non ho controllato, però incontinente RAI 1, RAI 2 e RAI 3 c'è ancora, solo che non credo diano i così regionali, perché sono abbastanza distanti e abbastanza basse, spesso coperte anche da stazioni spagnole e francesi che non hanno rinunciato alle HF molto saggiamente, tra l'altro. È tutto lì. Riprendi Giulia. Ok, sì, ma infatti mi divertivo con la Radio Galera, mi divertivo. Mi ricordo una volta, una domenica sera, era mancata la luce e io stavo pasticciando, chiamiamolo così, stavo facendo applicazione elettronica a casa, e c'era una persona, no? A un certo momento era l'ora della partita di calcio, allora c'era tutto il calcio minuto dopo minuto, come trasmettevano prima, no? Spezzettino come oggi. E siccome io tipo per la Juve, no? Aveva segnato la Juve, così mi è venuto l'istinto e sono balzato, ho detto, oh, finalmente che ce l'ha fatta segnare. Questa persona che c'è da casa mi guarda meravigliata, e cosa sta dicendo? Mia moglie, no, mica che sta ascoltando la partita di calcio, sta ascoltando alla radio. Se non c'è luce, come fa a ascoltare la partita di calcio? Io avevo la Radio Galera, aveva le orecchie, no? con le cuffie, perché giustamente dovevo ascoltare con una cuffia di almeno 2000 ohm, se no non senti niente, difficilmente senti. Sì, potresti sentire, mettendo che so io il trasformatore d'uscita di una radio e una bobina che poi non fa altro che fare anche quello in presenza, e allora potresti anche sentire in un semplice auricolare di radiolina, eccetera, puoi sentire ugualmente, sempre parlando di Radio Galera. Invece poi mi divertivo anche, siccome io a casa ho uno strumento musicale, no? È un piano, che poi c'è anche l'organo, tutto in un unico apparato, è grande come un comò, tu immaginati un comò di camera a letto, è così grande, c'è tutto. E dunque lì c'era anche l'ingresso in, no? E io mettevo l'ingresso della Radio Galera, la collegavo lì con il suo spinotto appropriato e allora facevo funzionare la radio che avevo fatto io, con una normalissima radio qualunque, no? Senza nessun problema. Per cui, ma si ripeto, prendeva solo esclusivamente quelle tre stazioni e basta, niente di più, qualche volta ne prendeva quattro che si aggiungeva a Radio Monte Carlo. Era comunque una curiosità, una soddisfazione quando facevo tutte queste cose, ma ormai ho smesso da anni, anche perché da quando mi sono trasferito in questa casa non ho più fatto applicazioni elettroniche, se non qualche PL, qualche stupidaggine proprio, nel vero senso della parola. Vabbè, avanti per me. Sì, sono belle cose, anche io c'ho la Galera, me l'aveva dato un amico che aveva fatto quel corso nel 57, addirittura da così tanti anni, c'ho ancora tutti i corsi, quelli, come si chiama, con gli opuscoli che li davano, sbattati lo scritto, mi sembra che l'avevo già detto, proprio battuti a macchina, tutte le cose, dalla fisica, elettronica, chimica, perché quando si studiava elettronica all'epoca si studiavano anche materiali, eccetera, saranno penso 500 pagine, dati lo scritto, e più si facciano fare gli esperimenti, tra cui la Radio Galera ce l'ho ancora io, con la piccola cuffietta, più che cuffia, un auricolare, perché ne ha uno soltanto per una parte solo dell'orecchio, come hai detto tu, impedenze molto alte, se no non ascolti niente, qui c'ho i variabili per dire se le vuoi sintonizzare su altre cose, se non vuoi fare la frequenza fissa, comunque sono cose interessanti. Poi, cambiando discorso, volevo fare una domanda a Gianfranco. Sì, fai pure. noterete la voce diversa perché ho dovuto cambiare il microfono, perché con quella cornetta il pulsante è duro e mi cancareggia la mano, quindi anche questo ho costruito. Fammi pure questa domanda, che sia facile però. No, niente di cosa, solo un'informazione, no. Allora io ho un build, ho un wattmetro della build, però le cose, i tappi che ho io sono per frequenze che non mi interessano, 100-250 MHz. Volevo capire se c'è qualcosa tu per la banda HF, oppure qualcuno che ha prezzi ragionevoli naturalmente. No, io il build non lo uso proprio per quel motivo, non ce l'ho neanche, non ho mai acquistato. Preferisco quelli classici, anche se sono abbastanza professionali, che non danno anche quell'impegno, ecco, capito? Perché poi alla fine ho tanta di quella roba che non riesco mai a avere niente in ordine. Allora da una parte c'è l'analizzatore, dall'altra c'è quello, dall'altra c'è quell'altro, diventa, se posso compattare il più possibile è meglio, perché insomma inizia a essere una cosa impegnativa anche. Quindi non ce l'ho, però si trova, ci sono un po' per tutte le frequenze, sono quelle cartucce che si mettono, come pensai, però costano care, è uno strumento super affidabile di precisione, però costa molto molto caro. Ok, vai giù. Ok, no, io come il rosmetro e il wattmetro, vabbè, ne ho quattro, ma quello che mi sta a cuore è questo KW520, questo è professionale proprio, fa tutte le frequenze, VU, HF, tutto fa, non c'è problema, va benissimo, per cui questo me lo tengo caro. Poi gli altri, si sa, sono i soliti rosmetri della ZG, no, devo dire che anche quelli, confrontandoli, misurano lo stesso come questo KW520, cioè che, ripeto, è professionale, perciò anche gli altri sono da tenere in considerazione, ma comunque va bene così, ma ne basta, tanto lo uso per la CB e niente altro, pertanto non posso più che essere contento. Va bene, avanti Gioca. Sì. Dicevo che qua ho cambiato nel passaggio precedente, ho cambiato il microfono perché quello là era troppo pesante, essendo un utilizzo tattico, quindi una chiamata ogni ora praticamente. Questo invece è un microfono da palmo, anche questo su cui utilizzo, e non sono amplificati comunque. Io gli unici preamplificati che ho sono quelli da tavolo, ma tutti questi palmari sono tutti microfoni elettrici, quindi infatti non sono ceramici, niente, sono più tranquilli, per un uso anche violento se vogliamo, si possono anche tirare in testa a qualcuno. E riguardo alla canena, Giulio, ti volevo dire che c'è anche una bella storia, sono delle belle storie su quelle radio, su figurati che le facevano gli italiani, che erano prigionieri, e soldati italiani prigionieri in campo di concentramento, si procuravano una galena, facevano un po' tutto con dei pezzi di filo, delle cose allucinanti, e per le batterie credo che usavano anche la pipistera per l'ammoniaca, in modo da creare, diciamo, da fare il voltaggio, perché tutti sappiamo che la notte a una certa ora mancava la luce e quindi dovevi arrangiare. Sono molte storie di questi qua che sentivano le trasmissioni di radio onda, eccetera, proprio per sapere un po' come andava la guerra, perché di lì non sapeva assolutamente niente, erano stati come animali praticamente. E ci sono tante belle storie proprio di gente, di italiani che si ingegnavano a fare queste cose veramente. proprio con pezzi di ferro e quant'altro,